adesso non mi piace, bene, se c'è un doppione lo chiami quando non c'è, quando sono col doppione lo chiami anche per il coso, per il soprannome, per nominarti, perciò preferisco sempre cambiarli per nome della persona, io vedere Salvatore, Natalino, Gianni, no, non mi piace, tu sei uno dei pochi, mi viene a chiamare a ricordarmi il falchetto, preferisco chiamarti per nome, così a capri, mi sa male come chiamare una persona per nominativo, è meglio chiamarlo coso per nome. Beh, lo sai cos'è, Rope, che vedi, io mi chiamo Antonio, c'è un altro Antonio, Gianni, per dire c'è un altro Gianni, cioè, è così, capito? Va bene chiamare con il nominativo suo, capito? Poi il nome, diciamo, il battesimo si può dare quando proprio si fa un discorso serio, compagnia bella, dai. Appartenete un attimino, mi sembra che c'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare. Sembrava ci fosse qualcuno, questo è solo disturbo, poco fa c'era qualcuno un po' più forte. Riprendi, Antonio. Cazzo, ho collato la macchina delle volte, insomma. Con la ricerca, e mi sono collato in potenziale, Giovanni. Sto scollando, vedi. Dai, sai cosa? Si può collare l'altra, che mi... La sua maletta con la collata, che è micidiale, cazzo. Una busta che ti si secca diventa presa, allora, a parte che ti si attacca le mani, è una guerra quando la vedi tu. Io so, se ti vado a rosa con la faglietta di quel modello vecchio, modello MRC2, e così, così, pulsantini da cambiare, non si muove, così è meglio, c'è una cosa che funziona. Se te lo vediamo per tanto, me lo sto avanzando, se neanche devo cambiare i cosi, tutti i libri che ci sono dentro, e ho già va. Però è stata la roba, è stata la sua sbarrata. Capire una cosa, sto parlando di cosa. Ho commutato l'antenna a più di 3 posizioni, ne hai per caso? Sì che ce l'ho a 5 se non vuoi. Ebbene, ma lo vuoi vendere? Te lo porti via il cazzo 20, vieni qui te lo... C'è un regalo, cosa vendi? No, la regalo a me non mi piace le cose, cazzo. Se vuoi te ne do un'altra a 3 posizioni, se lo vuoi, e facciamo a scambio, cosa, come vuoi tu? Sì, certo, se mi offri una birra cosa cambia? Mi offri una birra e siamo a posto. Vabbè, se vuoi la birra, contento tu, cosa vuoi che ti dica, Antonio? Vabbè, già ci sentiamo, poi magari ci mettiamo un altro. Ma cos'è di quelli della strategica, che mai c'è? No, sono di quelli che si usavano per il coso, perché no di quelli agili lì, perché c'è un componente militare, capito qua? E quindi c'erano, costruivano amplificatori, costruivano radio, costruivano un sacco di cose, e da quei cosi ci sono questi potenziometri, mi sembrano 3 o 4 di quelli per farmi il computatore d'antenna. Uno me l'ho lasciato perché c'è un portato dei 6 canali e mi va bene. L'altro ce l'ho attaccato per lo scampato, ho fatto per risaldarlo e a posto. Sono i nuovi, ma componenti attaccati al coso. Certo, senza essere lasciato lo scampato. Però vieni che lo prendi. Se no che me lancio. Prendi lo scatto, aspetta. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 5, anche per il segnale va bene, questo è uguale identico a quello del segnale. Ma arriva una cosa, non è interruttore, è commutatore rotante, così? Sì, commutatore rotante. C'ha due agganci al centro e poi c'è tutto il resto intorno. Ma con il buco è aperto? Non è senza aperto, ma non è il volume. Vedi la mela che scorre, la pallina. Sì, ma aspetta un attimino, deve essere chiusa. Come fai? Non ho capito, c'entra la radiofrequenza lenta, come fai? Cioè, ma era quello che tu costruito o l'ho comprato? No, ma quando lo vedi, mica i comodatori sono come piacere. Quelli del lineare sono aperti, per esempio. Così è questo, non c'entra niente la radiofrequenza. E ti do questo commutatore che ha 5 posizioni, c'è l'ingresso e le uscite. E vabbè, così adesso magari mi faccio il numero tuo da qualcuno, da Natalina. Natalina non c'è il numero tuo? E ce l'ho Palchetto, qua già lo sanno che abita, siamo vicini con Palchetto, 2 secondi e così te lo prendi stasera. Vabbè, ma Falchetto sono più o meno dove abita, vabbè dai, già ce n'è di tempo, tanto Falchetto pure deve venire, ci dobbiamo mettere d'accordo per prendersi l'antenna, perché lui non sa dove sono io, magari glielo spieghi tu fuori dalla radio, perché no, non mi piace dire le cose mie in radio, se no vabbè, do un appuntamento, ci sentiamo, dico mi fate trovare a tale ora vicino a questo punto a Falchetto, tanto metto lui me la porta a Salvatore l'antenna, poi magari ci sentiamo la sera in radio, dico mi fate trovare lì, vengo e te la porto. Ci vediamo lì e tutto quanto. Andare, andare. Non avete compreso nulla, avete parlato esattamente insieme dall'inizio alla fine per 30 secondi, non ho capito niente. Iniziamo la cosa, Antonello, cos'è detto Antonello? Ma noi vediamo solo che abiti tu, non c'è problema, quindi quando lunedì, ma se ne chiami, ci io già prendo e ti porto quel commutatore, al limite ci avviciniamo con un salto e non viene a prendere a me, quando c'è la lavorare, si sta lavorando, e ci avviciniamo. Vabbè, non c'è problema, mentre tu fai cosa hai detto? Io ho detto che non ci sono problemi, ci sentiamo in radio, ti dico dove trovarci, all'ingresso dell'ippodromo, dove trovare il camion, le macchine, all'ingresso dell'ippodromo, capito? E ci pensiamo a portare via Parigi, in poche parole, ecco, dove c'è l'ingresso dell'ippodromo, hai capito? Non c'è problema, dove vuoi tu, no, non sarà visto, già manna, c'è già il piccolo la zona, noi dobbiamo andare alla veloce, ti devo dire il punto, qua siamo abbastanza vicini, poi mi anche all'ingresso alla Cobeco, dove vuoi tu, vabbè non c'è problema, dai, ci sentiamo per radio. Io sento gente sotto, aspetta un attimino, c'è qualcuno che chiama, avanti. Vabbè, o è propagazione, si sente qualcuno parlando, ma vedete è propagazione comunque. Di nuovo Antonè, e chi parla questa base con la supremazia militare? Io ce l'ho detto con Gianni Bravo 2 una volta, ma mi hanno caricato un po' di roba di tutti i cambiati, alimentatori, figura di lui, c'erano la trasformazione, di tutto vale a dare chiato. Mi è rimasto solo il sistema di puntamento, me ne rara, no? Agganciare, no? Il coso di resto è tutto quanto fatto apposta, no? Valvole, capito, eccetera eccetera. Ma che valvole c'è perché Antonio? Sì, c'avevo valvole, le ho tutte regalate apposta, no? Ma valvole grandi, 13 pittori, per 12 pittori, tutto l'ho regalato adesso. C'è una casa piena, ma un paio di bottoni grandi, tanti tempo fa, con la metà del seggio, figurati. Poi mamma, cosa ti hai fatto questa roba qui, buttaci tutto, buttaci tutto, la posta, no? Mi sono pentito, se no me l'avrei messo qui come roba la collezione, c'erano qui tubi da rara, tondi, sembrava un pocione di vino. Insomma le cose, quelle tenere, ogni tanto ai mercatini è vero, quelle valvole grosse di trasmissione, bellissime, anche se sono esaurite, però fanno sempre una bella figura, sono belle. No, io adesso, quando c'ho tempo, devo fare un amplificatore audio, c'è un circuitino piccolino, semplice, devo vedere se vanno bene i trasformatori che ho io, e poi vediamo un pochettino, qualche valvola, cioè, ne avevo tante, chissà, ma mi sono andate a finire, c'avevo una cassetta di valvole, però non riesco a trovare dove le ho messe. C'è un amico mio, diciamo, mi aveva trovato un bel po' valvole, più di 4-5 cassette ne aveva, c'era tutte in casa sua, non so se ce l'aveva conservate o meno, c'era per il titolo di Fender, perché ci ha portati a cosa Santa Maria, a fare in Kilby, la povera strumentazione, gli ho pagato il prezzo di lui, e gli ha detto, adesso ti attacchi a culo, gli ho detto, guarda, ma non serve più a niente, antenne, antenne per TV. Chi è questo? Mario Chile, si chiama. E a Vula che lo conosco. Quello c'è il laboratorio, cos'è, via Massi, come noi via Massi, da questa siamo qua via lì, vicino lì, stai. Sì, via Massi, lui già ne ha roba, mi va in Santa Maria e piena, c'è anche andare in macchina per la macchina, se ne vuoi. Di quei radio, se ne ha già, mettito di FM, tutto va. Tutto va fatto a Santa Maria all'umido. Non dire la fatto a Santa Maria, perché la barattura lo c'ha. Sì, c'è tutto buttato giù, non è c'è la barattura, c'è Santa Maria, c'è un po' di attrezzatura, sapita. Solo che da adesso non c'è posto e ce l'ha messa tutta a Santa Maria, dentro questo locale, non è che sia asciutto, no? Scusate la comodità. Ma quello costruiva anche il trasmettitore del fiume, quello era un bravissimo tecnico, eh? Sì, già lo so. Quella addirittura aveva fatto una società a Milano, non mi ricordo come si chiamava questa ditta, ma non me la metto, perché c'era la pubblicità anche nelle riviste, quelle che leggevo io, e c'era proprio lui, l'avevano intervistato, e produceva degli, come si chiama, trasmettitori FM, adesso non mi ricordo la ditta come si chiamava. Già lo so che faceva di Palomari, poi è a Sassari, sta facendo, installando solo antenne per corso. Si parla anche di palazzo di TV, ma poca roba. Anche perché è TV dentro la palazzo non può essere detenere più distanti, pensano che sia montezza. Quello già è vero, no, ma quello era bravo, io mi ricordo quando avevamo all'inizio una piccolina stazione FM, il Travici, proprio piccolina, ci avevamo preso quel kit di DACT, te lo ricordi, quello piccolino, adesso mi ricordo, c'era 2 watt, 3 watt, e l'aveva portato lui, siccome era molto amico del padre di un amico mio, e un ingegnere elettronico era il padre, mi ha detto, mia, allora te, il nome mio da cosa, a questo socchine, e mi sembra di Amancina, che via è quella lì, allora non me la metto, vicino a una traversa via Tempio comunque, e c'aveva tutti gli strumenti e ce l'aveva un po' allineato, anche se ha detto che era una gagada perché non era quadrato, oscillava troppo di frequenza. Via Civitavecchia? Via Civitavecchia, esatto. E per chi ti quanto ho portato la CT, quello stai dicendo tu comunque, ce l'avevo usato anch'io, adesso mi avevo camminato, tirava 3-4 watt, giusti giusti, no? Andava benino per me, così per come giocato. Vabbè, io faccio un attimo di piatto, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, vabbè. Ciao, ciao, Franchetto. E via, avanti, avanti. Yeah, ciao Antonio, buona carica, buon tutto. Robert, quello è un grandissimo amico mio, lo sai? E guarda, io ero anni che non lo sentivo, mi ha detto l'ha tolto da me, ma quello era molto bravo, sulla radiofrequenza, ma che cosa che fine ha fatto quello lì? Non te lo so dire, io ci siamo trovati tantissimi anni fa in un locale e niente, si è invecchiato un bel po', però era veramente un bravo tecnico, veramente uno che non incontra base, diciamo, dai. Niente, non so neanche più se c'ha più il laboratorio lì. No, ma era chiuso, io per una volta c'ero ritornato, era mesi che era sempre chiuso, perché doveva, non so cosa doveva fare questo signore, mi doveva fare qualche cosa. Io sto parlando, quanti anni ci avrà avuto? Ci avrà avuto, 16-17 anni, per cui stiamo parlando di una trentina anni fa, 27-28 anni fa, dai, a fare del genere. Era uno dei pochissimi che si occupava di radiofrequenza, quelli lì, per apparecchiature di trasmissione. C'aveva un po' di roba, pure era un laboratorio un po' disordinato. Poi, anni dopo l'avevo letto su una rivista specializzata, c'era lui che aveva aperto un'impresa di produzione di trasmettitori FM e cose del genere. Poi, scomparso, non lo più sai, ma un tipo solitario, un po' strano era, dai. In effetti sì, confermo quello che dici, era molto solitario. Poi, ecco, era partito a Milano, mi ricordo, sì, quando era tornato, era proprio a Milano, lui era a Milano, capito? No, adesso a ricordarmi come si chiama la ditta, c'aveva tipo nome Electro Elco, un coso così, o Telecom, ma un nome così c'aveva, tipo, si ricordava telecomunicazioni il nome, probabilmente si chiamava Electro Elco, una cosa, ma erano apparati anche di un certo livello, mi avevano fatto una mostra, che faceva la mostra dei radioamatori a Milano, non dei radioamatori, della radiofrequenza, c'erano radioamatori e stazioni radio, private, eccetera, eccetera, e lui aveva proprio lo stand, non lo ricordo, c'era su una rivista specializzata, c'era proprio lui, l'avevano intervistato e tutto quanto, c'era tutto un articolo bello su di lui. No, poi era una persona molto seria sul lavoro, non ce n'era per nessuno, sul campo suo era troppo in gamba come lavorava. E purtroppo adesso ne conosco altri di tecnici, però in radiofrequenza, in alta frequenza, di cui sulla punta delle dita di gente che sia capace di metterci in mano, mi sono proprio pochi a Sassari, a parte che ci volevano anche attrezzature, e poi ci vuole grandissima esperienza. Soprattutto nel fatto di trasmissione, non fatto di ricezione. Quegli apparati di lì hanno necessità, cioè un'esperienza enorme. c'era qualche durato che le faceva, però si arrangiava, però lui era proprio il campus, lui era specializzato proprio negli alburi della radio privata, era una persona molto molto capace. È vero, confermo quello che dici, perché no, sul campo suo non ce n'era per nessuno, la verità si dica. E c'aveva anche un buon giro di clienti, io mi ricordo, ma sai perché ti confermo questo? Perché io lavoravo proprio di fronte a lui, capito? Io lavoravo nel negozio di bibite, capito? Si diceva un bar all'angolo, che bar c'era di lì vicino? Carboni, buon'anima, perché adesso è morto. Come hai detto? Bar Carboni. Adesso non lo ricordano, comunque era molto vicino a lui, c'aveva una specie di un doppio garage, aveva una serranda, era un po' triste come locale, non c'era né segna né niente, varia un multiraggio, ma era pieno di roba, c'era un sacco di roba anche di valore. È vero. Non lo so, comunque mi farebbe piacere rincontrarlo, perché a parte che è anche un amico, ci conosciamo parecchio tempo, capito? Non l'ho veramente, non ho più visto né sentito. Ti ripeto, l'ho visto una volta che era sceso a Milano e ci siamo messi lì a scambiare due chiacchiere, e lui mi fa, dice, come mai non ci sei più in mia città lì? Che lui mi ha detto, dice, sono trasferito da molti anni, dice, sono a Milano, adesso sono qua in Fili, ma mi hanno detto, ho detto, ma che direzione hai di rimanere a Milano? No, dice, forse ritornerò a scendere. E poi gli ho parlato del locale, lui mi ha detto, no, il locale c'è per mio, quello non c'è problema, dice, basta, tutto qua. Ma se un attimino sento qualcuno fiscale, non so se sia qualche qualcuno distante, tipo spagnoli, avanti chi è sul 30? Probabilmente la propagazione era. Ok, no, ma diciamo era una persona sul suo lavoro, già sapeva muoversi. E come ha detto Coso, peccato c'aveva un sacco di roba interessante quello lì, chissà che fine ha fatto, chissà roba, come succede sempre, poi prendi a Mutunesi, la lascia all'aria aperta e ci butti tutto. Infatti, no, c'aveva anche, io mi ricordo, c'aveva dei, come si dice, un sacco di apparati, VHF, questa roba qua, no, aveva un sacco di roba. Oh, già lo so, già ho visto anche l'amplificatore, di tutto, un sacco di roba, però più che altro era un laboratorio di trasmissione, di apparati di trasmissione, non di televisione, riparazione TV, magari li poteva fare, ma lui era soprattutto roba di trasmettitori, c'aveva un sacco di roba. È vero, confermo, secondo me non ce n'era un assassino come lui. Sicuramente, dai. Anche io vado a riposare una mezz'oretta, poi magari ci sentiamo più tardi, dai. Ti saluto, ciao, buon tutto, se non ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, vabbè, dai, buon riposo, buon tutto e ce ne ascoltiamo dopo se coincide, ciao.